A bordo campo di Dario Ricci. Abbiamo lavorato un po' sull'elettronica, su qualche mapping diverso, anche abbiamo provato qualche setup diverso per provare di capire com'era questa moto. Credo che abbiamo fatto un bel lavoro, anche era costante, ancora qualche punto dove dobbiamo andare un po' meglio, ma Honda farà un bel lavoro sicuro, vediamo se va meglio. La voce è quella del campione del mondo di MotoGP, quel Marc Marquez che ha sbaragliato il campo all'anno d'esordio nella classe regina e che pure qualche titolo mondiale già l'aveva incamerato nelle classi minori. Beh, lui, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa sono un po' i simboli di una Spagna che la fa da padrone nel mondo del motociclismo e che ha preso un po' il posto che fino a qualche stagione fa era di noi italiani, perché è vero che siamo ancora aggrappati alle ruote di Valentino Rossi, ma insomma fino a poco tempo fa riuscivamo a produrre campioni come Loris Capirossi, come Max Biaggi, in un vivaio che in questo momento si sta rinnovando per cercare di tornare al massimo livello e di giocarsi quei titoli mondiali che sono l'obiettivo di ogni motociclista. Proprio di questo oggi parliamo qui a bordo campo, andiamo a scoprire i giovani talenti azzurri delle nostre due ruote e soprattutto a capire con quale filosofia la Federmoto sta lavorando per costruire queste scuole e questi talenti. Allora, il nostro primo ospite è Simone Folgori, responsabile proprio della Federmoto italiana del campionato italiano velocità. Benvenuto Simone. Grazie, buongiorno a tutti. E poi abbiamo uno di questi giovani talenti azzurri che già sta facendo parlare di sé insieme a questa pattuglia agguerrita di ragazzini terribili sulle due ruote. 15 anni, di Roma, al secondo anno in Moto3 e al debutto nel Red Bull Rookies Cup nel mondiale. Benvenuto a Fabio Di Gianantonio. Grazie, ciao a tutti. Allora, partiamo subito da Simone Folgori. Beh, abbiamo sentito la voce di Marquez. Simone, è lui l'emblema di questa Spagna dominante in questi ultimi anni. Ecco, qual è la forza del modello spagnolo? Perché produrre un campione, per carità, spesso gran parte del lavoro la fa madre natura, ma produrne 5, 10 e anche qualcosa in più, come stanno facendo gli spagnoli, vuol dire che forse è un sistema che funziona bene. Ma diciamo entrambe le cose, nel senso che lo sport motociclistico ha sempre vissuto di cicli. Abbiamo avuto il ciclo degli americani, poi degli australiani, quindi quello degli italiani per un lungo periodo, e adesso abbiamo quello degli spagnoli, che non è sicuramente casuale, ma nasce da una programmazione iniziata circa 10-12 anni fa, dove in un paese l'hanno fatto sistema, cioè aziende, sponsor, industrie e piloti sono riusciti a creare un programma sportivo di cui adesso stanno raccogliendo i frutti. Dobbiamo prenderne atto e 4-5 anni fa anche in Italia è riuscito a iniziare questo progetto di rincorsa per riprendersi quel dominio che abbiamo sempre avuto negli anni 90. Prima di vedere le classiche luci, no, di questo percorso di rimonta, mi viene da chiederti come mai abbiamo perso però inizialmente quell'egemonia che ci caratterizzava non tantissimi anni fa poi. La Spagna ha avuto sicuramente un boom sportivo, economico, che l'ha portata ai vertici del calcio, del basket, del motociclismo, del tennis in brevissimo tempo. Noi abbiamo avuto sicuramente un buco anche forse di programmazione, ci siamo seduti sugli allori per un certo periodo e stiamo pagando forse questo vuoto di programmazione, che è ricominciato tanto che negli ultimi 5 anni abbiamo vinto tutti i titoli giovanili dagli 8 ai 12 anni, perché sappiamo che dobbiamo ripartire dalle basi per poi ricreare i piloti del futuro. Beh, insomma, direi che Fabio Di Gianantonio è un esempio di questo nuovo percorso che è stato intrapreso, perché leggo rapidamente il suo curriculum: nel 2008 campione italiano di minimoto, 2008-2009 vincitore del campionato europeo di minimoto, 2012 vincitore del campionato italiano pre-GP. Beh, Fabio, per aver 15 anni già un palmarès di cui non ci si può lamentare, no? Sì, però naturalmente non è, cioè non si può mettere a confronto con un campione del mondo come Marquez e Lorenzo. Ah beh, no, quello no, anzi tra l'altro so che proprio Marquez è un po' il tuo idolo, no? Sì, adesso cioè, secondo me è uno dei piloti forti che ci stanno appunto nel mondiale, o forse anche il più forte. Quest'anno ha dato veramente spettacolo. Qual è la gara che ti è piaciuta di più? Perché ce ne sono state diverse in cui veramente ha regalato grandi emozioni. L'ultima. Sì, insomma, titolo mondiale a Valencia, la grande festa. Senti, tu invece come ti sei avvicinato a questo sport così particolare? Allora, io quando ero piccolo vedevo le gare in televisione con mio papà, che è praticamente lui che mi ha fatto questa passione. Mi piaceva vedere sempre le gare così, con Duan, Grivillè. Allora, piano piano ci siamo sempre avvicinati e alla fine, quando ho avuto 5 anni e mezzo, mi ha fatto vedere la prima minimoto. Sento l'accento romano che condividiamo, tra l'altro, ma allora tifi per Valentino Rossi o per Max Biaggi? Ho più simpatia per Max Biaggi. Eccolo là, t'ho beccato. D'altra parte la rivalità sulle due ruote non ammette compromessi. Simone, non la togliere a Valentino, ovviamente, poi. No, insomma, assolutamente, anzi, Valentino ancora quest'anno sarà, almeno ancora quest'anno sarà la punta di diamante della spedizione azzurra nel moto mondiale. Tra l'altro, Simone Folgori, un Valentino che proprio da quest'anno darà vita ad un percorso di formazione di giovani talenti motoristici che è strettamente collegato col lavoro che state facendo voi in federazione, no? Beh, sì, perché lui fa il debutto come proprietario di una squadra e userà, diciamo così, perdonatemi il termine, i piloti prodotti proprio dalla federazione, perché Fenati e Bagnaia sono stati per 2 anni i piloti del Team Italia, che è la massima nostra espressione, quindi abbiamo un team nel Mondiale Moto3 che appunto raccoglie quelli che sono i piloti creati dal vivaio della federazione, che noi iniziamo a seguire da 8 anni fino dalle mini moto fino alle mini GP, poi passano per il campionato italiano e i più meritevoli li portiamo al mondiale per affacciarsi a questa vetrina, e poi se hanno talento saranno presi dalle squadre migliori per farli diventare i campioni. Fa un po' impressione, Simone, sentire le età di questi giovani centauri, no? Anche se poi come tutti gli sport li si inizia da piccoli e poi si sceglie, si decide, e il talento anche fa la sua parte di continuare quella strada, però insomma è un po' particolare riuscire già a quell'età a mettere questi bambini sulle mini moto. Sì, l'età di 8 anni è quella in cui tutte le discipline iniziano l'attività agonistica, quindi diciamo che fa specie il fatto che lo fanno in sopra una motocicletta. Però lo sport è sempre stato molto, molto precoce, perché a 16 anni già debuttano nel moto mondiale, e quindi c'è questa necessità, o proprio fatta dal sistema, di produrre piloti già in grado a 12 anni di girare in piste di mondiale come Mugello, Imola e Misano, come Fabio che dal prossimo anno girerà già sui circuiti del mondiale. Fabio, ecco, torniamo proprio da Fabio di Gian Antonio. Papà ti ha trasmesso la passione, ma mamma che dice? Mamma all'inizio non riusciva a vedere neanche una gara delle mie, poi piano piano invece si è abituata, quindi adesso le vedo tutte. Quindi insomma viene proprio sul circuito, sta lì, fa il tifo. Sì, adesso diciamo approva anche lei. Ma tra l'altro poi è pure brava in cucina, mi hai detto ad un pranzo tortellini e frittata, che non so se è proprio il pranzo dell'atleta, Simone, va bene come pranzo, come menù per un giovane campioncino? Così così, diciamo, però Fabio è molto in gamba, è una persona molto attenta e concentrata su quello che vuole fare, è un ragazzo veramente intelligente e va anche molto forte in moto, quindi abbiamo molta fiducia in lui. Quindi il tortellino è più che giustificato, caro Fabio. Senti, ti chiedo ancora, da questo punto di vista, quindi tutta la famiglia ti supporta, fa il tifo per te, non hai dovuto faticare come magari è capitato ad altri bambini della tua età appassionati di moto per far passare l'idea che volevi diventare un pilota o che volevi provare a diventare un pilota? Sì, cioè a me ho avuto questa fortuna che appunto in famiglia, diciamo, lo accettano tutti questo sport, piace a tutti quanti, pure a mio fratello, e quindi diciamo è andato bene. Simone Folgori, ecco, in che modo supportate o interagite con le famiglie nella formazione di questi piccoli atleti in un'età così particolare? Sì, abbiamo un settore tecnico, quindi dei professionisti che seguono questi ragazzi durante la loro attività in pista e nella preparazione fisica a casa prima delle gare. Secondo delle fasce d'età abbiamo degli interventi che sono più mirati oppure un po' più blandi, a seconda appunto dell'impegno che hanno come campionato. Fino proprio a seguirli in maniera completa quando arrivano nei campionati nazionali o i campionati mondiali, dove abbiamo sia un sostegno organizzativo, logistico e che economico, quindi uno sforzo piuttosto ampio, però che riteniamo sia proprio fondamentale per il nostro vivaio. Fabio, invece con la scuola come va? Si riesce a studiare? Sì, cioè, un po' di tempo me lo studio, cioè, anche perché ultimamente non sto andando, cioè sto andando bene, sto andando, tutti ho preso i primi voti del secondo quadrimestre e sono tutti più o meno 7-8. Ah beh, cioè, abbiamo la pagella in esclusiva, diccela un po', com'è che tutti 7-8? Sì, sono tutti, cioè, la pagella del primo quadrimestre sono 3 o 4 7, un 8 e poi sono 2 6. Beh, insomma, quindi non va male neanche a scuola. Che classe fai tra l'altro, Fabio? Primo liceo. Oh, bene, che indirizzo? Scientifico? Scientifico. Simone, vuol dire che il programma funziona e più che dai risultati in moto già eccellenti, è testimoniato anche dalla pagella che ci ha rivelato in diretta Fabio Di Gianantonio, no? No, non può farci che piacere, anche perché è una delle prime cose che gli chiediamo sempre, insomma, sono comunque di giovanissima età, devono prima pensare ai loro impegni scolastici e poi dopo a divertirsi con la moto, perché poi dopo i loro successi saranno sicuramente più semplici. Allora, io intanto ringrazio Simone Folgori, responsabile della Federmoto per il campionato italiano velocità, per averci raccontato quello che è il lavoro che c'è da parte della Federmoto nel creare i giovani talenti delle nostre due ruote. Saluto anche Fabio Di Gianantonio con un grande in bocca al lupo e d'obbligo gli chiedo un pronostico. Allora Fabio, chi lo vince quest'anno il moto mondiale della MotoGP? Anche quest'anno è una bella lotta, perché comunque sia Marquez è sempre Marquez, quindi è un fenomeno, pure quest'anno secondo me ci darà tanto spettacolo, però cioè, la Yamaha è cresciuta, quindi Lorenzo pure adesso sta, diciamo, sta pienamente in lotta per la vittoria. E allora staremo a vedere se ci sarà il duello fra i due spagnoli o magari ne godrà un terzo outsider. Intanto grazie anche a Fabio per essere stato nostro ospite e un grande in bocca al lupo per la carriera e complimenti per la pagella. Grazie, credi per in bocca al lupo. A bordo campo. Complimenti, avete fatto un lavoro fantastico. Motori protagonisti oggi qui a bordo campo e soprattutto stiamo cercando di ricostruire il percorso che i talenti di due e quattro ruote fanno per arrivare ai massimi livelli. Vogliamo capire se questi campioni o ipotizzati tali vengono supportati e in che modo, e soprattutto qui in Italia, perché ci troviamo a competere contro grandi paesi, grandi scuole motoristiche, quindi è davvero importante mettere a fuoco il percorso che può portare al vertice un talento italiano. E di questo oggi parliamo con un ospite davvero particolare, Romano, classe 1981, campione mondiale con la Ferrari nel 2013 nella categoria GT Pro e che ha anche nel suo palmarès un'importante esperienza in Formula 1. Benvenuto a bordo campo e a Radio 24 a Gianmaria Bruni. Ciao a tutti, un saluto. Allora Gianmaria, diciamo subito, spieghiamo un po' che categoria è questa GT Pro, spiegaci un po', perché è una categoria importante e che ti ha permesso di salire anche sul podio più alto nel campionato mondiale del 2013. Sì, è una categoria endurance, facciamo tutte gare da 6 ore, 24 ore, tra cui la 24 ore di Le Mans, che tanto fa parte per del campionato mondiale. Tanto per gradire, insomma. E poi queste gare sono tutte, diciamo, gare endurance, si corrono tutte e due piloti e la 24 ore di Le Mans in tre piloti, perciò ci alterniamo alla guida, ogni due ore ci diamo il cambio alla guida in queste gare e ci sono tutti i costruttori dei vari marchi automobilistici, dalla Porsche, la Corvette, altri competitor, tutti i costruttori più famosi fanno parte del mondiale endurance. Beh, insomma, quindi direi un campionato mondiale d'eccellenza e che basti ricordare appunto il nome che hai citato tu, Le Mans, ha nel proprio calendario nomi che fanno venire i brividi, no, agli appassionati di motori. Sì, sì, beh, sono tutte gare belle, storiche, dalla 1000 km di Spa alla 12 ore di Sebring, che non fa parte del campionato ma è una gara endurance sempre molto famosa. Le gare sono tutte, anche se sono endurance, ma sono tutte gare combattute, diciamo di ritmo e non proprio di durata come, o di endurance come il nome del campionato. Sono gare dove ormai fanno parte anche ex piloti di Formula 1, non so, anche Kobayashi l'anno scorso nel 2013 faceva parte con la Ferrari, era il mio compagno di squadra con l'altra macchina, quest'anno è ritornato in Formula 1, perciò è una categoria dove ci sono piloti, ex piloti o piloti che magari fanno un piccolo passo indietro per poi ritornare in Formula 1, questo è un esempio Kobayashi. Certo, si rimane sotto i riflettori per poi provare a risalire su uno dei bolidi della classe regina. Ecco, tra l'altro Formula 1 che tu hai ben conosciuto nel 2003-2004, se non sbaglio, no? Raccontaci un po' come andò quell'esperienza. Sì, beh, quell'esperienza è stata un po' difficile, bella, perché chiaramente sono arrivato a correre in Formula 1 a 21 anni, 22 anni, nel 2003-2004, però poi comunque è una realtà difficile. Con la Minardi hai degli obiettivi ben differenti, che sono magari per un pilota che cerca di fare il massimo. La Minardi era purtroppo un piccolo team con un piccolo budget e piccole prospettive, però comunque era, all'epoca era uno dei 10 team che correvano in Formula 1, perciò mi ritengo uno dei fortunati, all'epoca uno dei 20 piloti che ha potuto correre in Formula 1. Beh, insomma, diciamo che al mondo a quel punto non eravate poi tantissimi, ecco, Gianmaria. Senti, entrando nel merito del nostro discorso, abbiamo disegnato già una panoramica particolarmente interessante, ma ti chiedo, perché è così difficile oggi come oggi ritrovare un pilota italiano in Formula 1? Per noi, o meglio per voi, questo percorso per arrivare nell'elite, nell'eccellenza mondiale è più difficile, siete meno supportati da strutture, federazioni, sponsor, oppure perché? Beh, innanzitutto è molto difficile perché è un po' l'economia di quello che c'è adesso in Italia negli ultimi anni, negli ultimi mesi, è molto difficile trovare dei sponsor, che supportano dei ragazzi giovani, specialmente nell'ambito dei motori. Questo secondo me è la cosa principale. Poi chiaramente ad oggi è difficile, non ci sono più i vari talent scout che investono su piloti giovani italiani, magari ci sono stati in passato, questo chiaramente rende ancora più difficile, però comunque la federazione sta cercando di ricreare un bel gruppo insieme anche alla SDA, l'associazione per i piloti giovani della Ferrari, che è un'academy, e sta cercando anche di ricreare un gruppo di forma i piloti e per poi magari lanciarli nella massima formula. Ti chiedo ancora, Gianmaria, quanto può costare, dacci un ordine di grandezza chiaramente, provare a lanciare un talento, provare a far fare a un potenziale campione il grande salto? Ecco, di che budget stiamo parlando? Beh, ad oggi i budget sono altissimi, in Formula 1 sì, parliamo di cifre con tanti zeri, difficile dare un giudizio e un numero preciso, però adesso ci sono molti piloti sudamericani, giapponesi o comunque piloti che hanno sponsor alle spalle, hanno delle nazioni vere e proprie alle spalle, e è difficile combattere con questa realtà. Però ci sono queste, come stavamo dicendo, ci sono queste academy di junior team, in questo caso è l'FDA della Ferrari o anche di vari marchi automobilistici che adottano la stessa scuola, che cercano di portare avanti e di crescere questi giovani piloti per poi magari lanciarli nella Formula 1. Hanno un valore molto alto perché comunque li formano in tutto e per tutto, cioè dall'imparare da un pilota italiano, dall'imparare le tecniche basi della messa a punto della macchina, lì insegnano chiaramente un'altra lingua che è l'inglese, che è quella lingua madre nelle corse automobilistiche, perciò formano un vero e proprio ragazzo dall'età di 15-16 anni, che nei miei anni, non perché uno adesso è vecchio, comunque è grande, però nei miei anni, 10 anni fa, 12 anni fa, era molto difficile trovare un'academy del genere, varie academy del genere, di vari marchi automobilistici che creavano e costruivano e aiutavano a crescere piloti giovani. Eh sì, insomma, diciamo che adesso a 16 anni, se già vedono quel barlume di talento, ti danno già un'opportunità, anche se con un percorso più definito, laddove invece, se ho capito bene, era più invece il piede, no, a fare la differenza appena qualche anno fa. Sì, sì, sì, non c'erano, adesso ci sono tante possibilità, uno da andare in pista ogni 3x2, perciò già il pilota migliora, poi ci sono tantissime acquisizioni dati anche nelle le formule più piccole, perciò anche tra un pilota e l'altro si riesce a percepire, a capire, a leggere dai dati che dà la telemetria, l'acquisizione dati, le differenze dei vari piloti, perciò anche tra vari piloti possono migliorare più velocemente. Una volta non c'era questa conoscenza, non c'era nelle formule più piccole, perciò anche questo ha aiutato a crescere il livello di tutti i piloti e a far sì che le varie accademie, le varie scuole di pilotaggio dei vari marchi, dei vari case costruttrici possono aiutare questi giovani talenti ad emergere. E senti, invece dal punto di vista delle abilità, del talento duro e puro, diciamo così, gli italiani se la giocano oppure cosa ci manca da quel punto di vista? No, beh, gli italiani non hanno nulla, secondo me ci sono secondo me giovani piloti bravi che stanno crescendo molto bene. L'unica cosa che è molto difficile, io alla mia età dico che in passato, quando avevo 17-18 anni, sono andato via dall'Italia, sono andato a vivere in Inghilterra, perché l'Inghilterra comunque ti forma molto di più. Il campionato inglese all'epoca, ben 12 anni fa, era il campionato inglese di Formula 3 più difficile. Uno, perché a 17 anni vai a vivere in un'altra parte, da solo, lontano da tutta la famiglia, gli amici, e poi comunque sei messo in una realtà che è quella più difficile. C'è stato un momento di stallo, cioè che i piloti italiani erano un po', tra virgolette, mammoni, che dovevano essere a casa, coccolati e tutto quanto. Però adesso vedo che comunque c'è questa cosa dell'Academy, che un pilota comunque si spinge oltre la famiglia, si spinge ad affrontare le varie sfide da solo. Perciò questo, secondo me, li rende solo più grandi e li valorizza. E in Italia, secondo me, ci sono i talenti e speriamo magari da qui a breve di vederne qualcuno uscire e farsi avanti in Formula 1. Sarà comunque dura batterti in pista, Gianmaria Bruni. Giovani piloti, sentite il consiglio di chi qualche chilometro in più di voi già l'ha fatto, insomma, voi che potete, osate e accettate la competizione anche ai massimi livelli. Intanto, Gianmaria Bruni, grazie di essere stato oggi nostro ospite a bordo campo. Abbiamo ancora qualche centesimo di secondo, ti chiedo subito allora al volo prossimo obiettivo in pista e non, Gianmaria. Prossimo obiettivo, da qui a circa 2 mesi partirà il mondiale, di nuovo il mondiale 2014, correrò sempre con il team AF Corse, il mondiale GT e Pro con compagno di squadra Vilander, e cercherò di tenere duro, e saranno avversari ancora più agguerriti dello scorso anno, e cercare di riconquistare quello che abbiamo fatto di bello l'anno scorso. Ebbene, allora in bocca al lupo Gianmaria Bruni, ti aspettiamo poi a fine mondiale a bordo campo per stappare il classico champagne magari per il bis iridato, dai. Grazie, ci proviamo. Per a bordo campo di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, anche in podcast, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend. A Bordo Campo torna come sempre domenica prossima alle 16.30 e in replica il sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.